persone capace di produrre beni utili, di essere utile, diciamo, e attraverso la loro produzione utile, di essere utile, come dire, all'affermazione del potere politico. E il fatto che l'economia politica, nel momento in cui afferma essere il mercato, diciamo, lo spazio entro cui si costituiscono strategie di governo dei soggetti, è costretto a concepire questa popolazione anche da un punto di vista biologico, dal momento perché la popolazione, per essere utile, deve essere curata nella sua salute, nella sua fertilità, nella sua natalità, fino alla morte. Quindi, come dire, questo mi ha fatto pensare, pensando all'oggi, che noi siamo, come dire, generati come soggetti biopolitici da questa storia e siamo in qualche modo assoggettati al biologico. In che senso? Penso a, come dire, alla necessità chiaramente inconsapevole di investire su se stessi a partire dal fitness, dalla propria salute, per potersi poi vendere meglio sul mercato del lavoro. Penso poi a quello che dice Foucault in volume che è in corso, trattato, diciamo, e discusso in questo libro, Nascita della biopolitica, che è il corso 1978-79, ossia alla centralità, a quella questione della centralità biopolitica delle strategie del capitale umano. Che cos'è il capitale umano? Il capitale umano, diciamo, è una teoria nata negli anni 60 negli Stati Uniti, che afferma che il lavoro è capitale in se stesso, costruito in che modo? A partire dal modo in cui l'individuo sceglie di investire i propri soldi in formazione per aumentare la propria capacità produttiva sul mercato. E Foucault dice che questa, come dire, è una forma tramite cui si afferma il governo degli individui, non solo ponendoli in concorrenza l'uno con gli altri, ma facendoli divenire realmente imprenditori di se stessi, che in qualche modo, come dire, divengono ciò che vuole il sistema di governo economico. E allora, e porta questa analisi fino a dire che in qualche modo già nelle teorie statunitensi del capitale umano si presenta un'idea di una base genetica innata del capitale umano, ossia che c'è, come dire, più capacità, più potenzialità di investire bene nel costruire il proprio capitale formativo nel momento in cui i geni dell'individuo sono ben selezionati e contengono, come dire, delle basi innate che lo possano rendere più produttivo ed avere più successo. E Foucault immagina, non so quanto ironicamente, in Nascita della biopolitica, che in qualche modo questo possa, diciamo, dare vita a strategie matrimoniali in modo da mescolare bene i geni, in modo da avere figli che potenzialmente siano più produttivi. Ecco, allora penso, insomma, la biopolitica che stiamo vivendo oggi è questa qui. Il capitale umano, diciamo che cos'è? E lo dico proprio in quanto, come dire, proprio scegliendo appunto la centralità politica della questione formazione, no? Il capitale umano che cos'è? Nel disegno, nell'affresco che traccia Foucault della governamentalità della biopolitica, è una tecnologia del sé, cioè è una forma per soggettivare, far divenire soggetti e assoggettare gli individui. E il fatto, appunto, concludendo, dico che il fatto interessante è che Foucault, a partire dal suo metodo, non presenta, come dire, la teoria del capitale umano come un imbroglio, come un inganno, diciamo, ordito ai danni di soggetti della formazione che poi, una volta usciti dall'apparato, diciamo, formativo e universitario, si troveranno con titoli di studio inflazionati. Ne parla in qualche modo, sì, da un lato come un'utopia, simile un po' a quelle utopie, diciamo, del passato, il panopticon, la torre di guardia che consente di sorvegliare, di far sì che gli individui si sorvegliano da se stessi, però nello stesso tempo è una cosa seria, che io penso in qualche modo è già effettuale a partire dal fatto che ciascuno di noi è costretto a guardare, diciamo, alla sua formazione come un investimento di capitale, scegliendo, diciamo, i percorsi che possono essere più redditizi per non essere escluso dal mercato del lavoro. E concludo, dico, insomma, qui non è che c'è, come dire, una dialettica, ma non c'è nemmeno, come dire, l'idea che dietro questa idea di capitale umano ci sia un soggetto che si stia auto-organizzando metabolicamente, molecolarmente, e che stia facendo irruzione per sfondare questa gabbia. Cioè, il fatto che si prende sul serio questa cosa, le si dà una descrizione positiva. E allora, in questo caso, io penso che una descrizione positiva, come dire, non sia un modo per accettare l'esistente, ma sia un modo per minare in modo, diciamo, drammatico e nello stesso tempo, diciamo, estremamente stimolante, il paradosso. Cioè, il fatto che a nostra insaputa agiamo così come il sistema di governamentalità vuole. E che, come dire, vedere, illuminare il paradosso mediante il metodo genealogico nella sua realtà positiva, penso che io, francamente, penso sia il modo, come dire, migliore, non per pensare, come dire, lo sfondamento e l'evoluzione del soggetto, ma per pensare effettivamente di attivare questa capacità, come dire, di interrogarsi sul presente in senso pratico e di concepire una controstrategia. Ho pensato al mio intervento esattamente come un intervento, poi quelli che rompere scatole su alcune cose che ha poco chiare, quelle domande che accadono in classe. E questo però credo che non sia di... Allora, la prima questione su cui mi piaceva partire e su cui mi piacerebbe discutere con Sandro è la questione di Foucault e l'Accademia in Italia oggi. Vi spiego. C'è un altro libro che si intitola Governare le vite, fatto per l'editore La Terza e curato da una professoressa di Salerno, che mia collega, sua collega, che si chiama Laura Bazzicalupo, però vabbè, la cosa è poco importante. Beh, questo libro ho avuto modo di incontrarlo in una discussione seminariale organizzata dal mio dipartimento a Firenze. Beh, la cosa interessante di questo libro, oltre al fatto che tenta di rubare, insomma, l'idea del titolo al libro fatto da Sandro, è che è un libro che in qualche modo ci dà un po' l'idea di che cosa sta accadendo dentro l'Accademia Italiana, dentro una parte dell'Accademia Italiana, sul fatto Foucault, cioè su come Foucault possa essere d'improvviso, in maniera, diciamo così, forte, energica, anche da un punto di vista editoriale, inserito dentro la scena ufficiale. E questo inserimento dentro la scena ufficiale di Foucault, attenzione, è un inserimento che ci deve far riflettere su degli elementi di rischio e delle inimicità che ci si presentano all'orizzonte, che perlomeno si presentano all'orizzonte a chi, come Sandro, fa di Foucault un autore sovversivo, e questa è la cosa che mi sta a cuore, e quindi in qualche modo un autore sovversivo che mette in crisi esattamente questa operazione che una parte dell'Accademia italiana sta facendo sul fatto teorico, politico che si chiama Michel Foucault. Lo dico, uno, perché Sandro nella sua prefazione a questo libro, che è uno strumento teorico notevole, oltre che uno strumento politico di estrema qualità, è utile a chi fa militanza oggi, a mio avviso, descrive, insomma, con una sorta di fotogramma che fa un po' da punto d'inizio di una serie di problemi che Foucault si pone e che trovano maturazione in questi corsi da poco tradotti per Feltrinelli, che costano caro, però insomma noi abbiamo anche gradi differenti per arrivare allo stesso risultato, chi se lo può permettere, io no, perché sono stato rinviato a giudizio nel caso di Salato, ma che è la questione della, del Foucault che vive dentro i processi militanti o comunque attraversa processi militanti, e in questo caso è l'episodio della Santé, la carica di polizia subita, come quell'episodio relativo appunto all'arresto dell'avvocato della Paternainov diventa un motivo di discussione politica anche accesa, anche aspra, con Deleuze, con altri. Beh, mi sembra estremamente interessante che, così come Sandro fa un'operazione di partenza proprio al testo, la prefazione, e dice, badate bene, Foucault inizia una serie di riflessioni e lo fa, a mio avviso, a partire da una serie di problemi pratici che ha avuto, e poi il salto successivo di Sandro spiega anche il perché, ricorrendo al Foucault che rilegge Kant, che cos'è l'illuminismo. Lo sforzo che sta facendo una parte dell'Accademia italiana, perché io non la conosco tutta e ho avuto in sorte questa brutta sciagura di incontrare Laura Bazzi-Calupo in un incontro che si è tenuto al mio dipartimento, prova un'operazione completamente differente. Cioè prova un'operazione che dice Foucault è un autore utile per noi che siamo stati incastrati nel moderno fino ad un po' di tempo fa, che insomma non ce la facciamo più perché la politica della rappresentanza e la sovranità come tali non funzionano più, non abbiamo alcuna soluzione alternativa alla catastrofe della politica moderna, abbiamo però dalla nostra soltanto uno strumento teorico di diagnosi buona, utile, che ci aiuta ad illuminare il presente, che è appunto Michel Foucault, e la biopolitica come concetto in grado di interrogare la crisi della sovranità politica moderna, la crisi dello Stato-Nazione, delle forme organizzative della politica così come si sono date in generale nel moderno, la crisi della politica della rappresentanza. Forse mi sbaglio, forse esagero, forse radicalizzo, però io mi sono trovato di fronte ad una discussione che esattamente poneva questo problema qui. Come Foucault, non un pensatore appunto sovversivo, il ritratto che ci offre Sandro di Foucault in questo libro che va letto in primo luogo, ma la questione di Foucault come uno strumento utile per noi disperati che veniamo fuori dalla crisi della grande politica del moderno. Quella crisi, a cui non sappiamo dare alcuna soluzione pratica, riusciamo più o meno a fotografarla attraverso Foucault. E quindi al concetto di governamentalità neoliberale, all'idea di biopolitica, esattamente come idea coincidente con la questione della governamentalità. La cosa interessante è che in questo seminario in cui Laura Bazzi-Calupo discuteva con alcuni, però non è importante il nome, ripeto, discuteva con alcuni colleghi del mio dipartimento, è che in tutto il seminario è emerso un solo nemico. Questo nemico ha un nome che, insomma, che ha un nome a noi noto, che insomma è Tony, che è il nemico di tanti, ma in particolare è il nemico di chi si esercita su Foucault esattamente in questi termini. E buona parte della polemica era sul fatto che Tony Negri e l'impero nel concetto di biopolitica da lui elaborato, che è un discorso che distingue la categoria di biopotere da quella di biopolitica, che assegna alla categoria di biopolitica un fatto proprio ed interno ai processi sovversivi di resistenza e di rottura, che non definisce e non fa coincidere il concetto di biopolitica con quello del biopotere, anzi che assegna un discorso sulla produzione di soggettività eccedente al tema della biopolitica, e quindi tutto questo poi condito con questa accusa di spinozismo che è proprio di impero e comunque la produzione teorica di Tony, questa roba qui è la cosa di cui ci dobbiamo liberare, riconsegnando ad una coincidenza piena le due cose, biopotere e biopolitica, al fatto che in Foucault non c'è nessuna attività pratica che si incrocia, si incontra, per dirla con la sua produzione teorica, la produzione teorica di quegli anni, e che quindi, insomma, possiamo stare sicuri, viviamo una vita serena e pacata, Foucault ci aiuta ad interpretare meglio il presente, ma semmai non ci dice nulla su quello che dobbiamo fare. Io credo che su questa prima questione, l'Accademia e Foucault, i processi di neutralizzazione che stanno investendo il pensiero di Foucault, mi piacerebbe, insomma, sapere Sandro come la pensi. Primo punto. Secondo punto, e ne vado veloce. Marco ha fatto un'introduzione molto larga che comprendeva tanti temi. Il tema su cui abbiamo un pochino lavorato, erano presenti molti compagni dell'Astra, a ESC con Paolo Pirno, riprendendo in mano Marx, questa forma di lessico che ci siamo dati. Il tema forza lavoro biopolitica, diciamo così. Ecco, a me piacerebbe che Sandro, se ne ha voglia, provi a intervenire un po' su questo, perché in effetti, poi io mi affido abbastanza volentieri alle cose di Paolo, alle tue indicazioni, ma al di là di quello, nelle letture marziane che abbiamo fatto a ESC in questo periodo, devo dire che abbiamo ritrovato, insomma, nella proposta che fa Paolo, attenzione, il primo pensatore della biopolitica in verità è il Marx del concetto di forza lavoro, è il Marx delle lotte sul lavoro e sull'orario di lavoro, cioè le parti del primo libro del Capitale che si occupano esattamente del tema vita, capacità di produrre, forza lavoro, salario, orario, insomma, quei temi là che riguardano l'addensamento di lotte attorno alla riduzione dell'orario di lavoro sostanzialmente. Beh, su questo secondo me sarebbe interessante tornare, perché là è una strada che Paolo ha accennato un po' di tempo fa come problema, e che però, e qui c'è un saggio interessante fatto da Rondolfi sul concetto di natura, natura e popolazione, così come viene espresso nei corsi foucaultiani, però credo che sia interessante tornarci un pochino sopra, perché io, per come mi sono avvicinato alla lettura del primo libro del Capitale, credo che lì ci sia una potenza significativa che dialoga con questi passaggi foucaultiani della fine degli anni 70, che sono passaggi che in qualche modo rimettono in gioco il discorso di Marx sulla costituzione. Cioè, che cos'è l'attenzione sulla vita se non l'attenzione appunto su quella merce peculiare che si chiama forza lavoro? Badate bene, non questa o quella prestazione lavorativa specifica, ma la capacità e la possibilità, la potenza di produrre in quanto tale, che coincide, guarda caso, con l'esistenza dell'individuo. Cioè, è l'esistenza dell'individuo che viene presa in carico nella forma della popolazione, dell'attenzione rispetto agli aspetti, insomma, diciamo così, le invarianti biologiche proprie di una popolazione, che emerge in primo piano non in un momento qualsiasi, ma nel momento in cui quella cosa lì, quella vita, quell'esistenza generica che viene riprodotta e che deve essere riprodotta, diventa la merce peculiare che rende possibile la produzione di plusvalore e quindi la costituzione del capitale, perché prima della produzione di plusvalore non parliamo di capitalismo, parliamo di un'altra roba. Cioè, questa è la novità che introduce Marx e che mi sembra dialogare in maniera interessante con i testi foucaultiani. Un passaggio, punto 3, l'introduzione di Sandro è molto bella, o meglio non la prefazione, scusate, il suo saggio, la prima parte del suo saggio parte esattamente da un tema foucaultiano molto tardo, insomma sono negli 83-84 se non sbaglio, che è appunto la questione del che cos'è l'illuminismo, cioè come Foucault rilegge il famoso saggio kantiano sulla questione dell'illuminismo, della critica, della ragione come fatto pubblico, dell'esercizio del fatto pubblico della ragione. Su questo i normativisti hanno preso tutta un'altra strada, dicendo che Kant sostanzialmente stava dicendo che grazie alla comunicazione, al dialogo, alla trasparenza del linguaggio, quelle cose che accadono nel fatto che si parla, c'è possibilità di ragione. Questa è tutta la deriva tedesca normativista che passa per Habermas e così via. Invece la Foucault fa un'operazione completamente differente su quel testo, che, su cui appunto Sandro appunta l'attenzione, ma che è, insomma, che è l'operazione formidabile secondo me fatta da Foucault, che in quel momento si interroga esattamente di etica, questione del soggetto, produzione di soggettività, e incontra il testo kantiano. Là, secondo me, c'è un tema di un'attualità profonda per chi fa il militante oggi, cioè su che cos'è questo pensiero, e qui ritrovo alcuni temi althusseriani della Althusser che rilegge Machiavelli, o piuttosto si dedica da pazzo alla questione del materialismo aleatorio, su che cos'è un pensiero della congiuntura, o una produzione teorica che è sempre eticamente attraversata dalla contingenza del soggetto che si costituisce. E su questo rapporto etica e conoscenza, incontro tra appunto, qui Sandro insiste sulla questione della critica pratica, cioè del fatto che la critica kantiana si trasforma in Foucault appunto in critica pratica, cioè in pensiero che prende sul serio il presente, cioè che lo affronta non soltanto dentro la ricostruzione della sua genealogia, ma anche attraverso una capacità di prefigurare spazio del possibile. Questo secondo me è uno dei temi che sta all'ordine del giorno di fa politica adesso, cioè questa è l'attualità del testo foucaultiano, di quel testo foucaultiano e di quegli elementi che Sandro ci propone, su cui semmai varrebbe la pena veramente strutturare un ragionamento che va più a lungo, o almeno a me sta particolarmente a cuore, a me poi piace intrecciarlo con altri temi, però non mi dilungo. L'ultimo punto, governamentalità e governance. Parliamo molto di governance in questo momento, lo abbiamo iniziato a fare a partire da un seminario di cui adesso è stato protagonista assieme ad altri, insomma, sulla questione della governance, e un seminario di Minoma che ho fatto un po' di tempo fa a Bologna, e questo termine lo stiamo molto utilizzando, non fosse altro perché Veltroni, la città di Roma, è veramente o seriamente un laboratorio di governance. Lo è molto di più di Zanonato e di Ferrari, a mio avviso, che la governance non sanno bene che cos'è ancora. Sì, cioè, nonostante i movimenti invece lo sappiano bene, e qui magari accade il contrario a volte, che è pieno di movimenti che rivendicano un posto di rappresentanza della sfiga, no? Cioè che è l'altro tema. Tutto interno al moderno. Allora, secondo me, il problema di questi due nomi, che magari sono due nomi, però hanno delle complicazioni teoriche, andrebbe un po' visto, non fosse altro perché, a mio avviso, l'elaborazione del concetto di governamentalità neoliberale è esattamente, non dico che coincide, ma ha molti tratti simili al discorso di sulla governance che abbiamo elaborato. Pensiamo appunto a quella cosa che si chiama Laboratorio Roma. Gestione dell'aleatorio, del rischio, illegalità non comprimibile, normalizzazione e neutralizzazione di processi dentro la libertà e la libertà di poter fare. E questa cosa a Roma è potentissima. Continuità di processi di inclusione che però includono, distinguendo, rendendo differente dentro l'inclusione stessa. Veltroni secondo me studia bene Foucault, cioè se non lo studia ne sa qualcosa per altre vie, però è esattamente questo il problema. Quando Marco introduceva il problema del capitale umano prima, chi pensa che Veltroni faccia cultura o faccia spettacolo perché produce delle cortine per le cattive coscienze dei poveri e poi la verità materiale che la gente soffre, non ha capito un cazzo su che cosa significa esattamente governamentalità in una metropoli complessa di produzione immateriale come Roma è. E secondo me insistere un po' su questo tema poteva essere utile, erano le poche domande che volevo fare. Grazie. Adesso però io sono in ampia difficoltà, nel senso che non so se devo parlare di Foucault o rispondere su questo tema. Intanto vi ringrazio tutti e due perché è palese, insomma, avete. Nel senso che non capita spesso, avendo di parlare gente che cerca anche di capire quello che è scritto, sempre l'accademia che lui comincia a frequentare, però non è così, non è così. Allora, forse è il caso che prima provi un po' a esporre alcune cose su Foucault per poi allargare il ragionamento rispondendo a qualcuna delle citazioni io credo che cioè, la cosa fondamentale sono quello che a me attrae, no? E che credo che mi permetta anche di pensare contemporaneo nostro, insomma, anche strada tratti così, sia proprio il tipo di gesto filosofico che fa. E questo è poi il motivo per il quale appunto ho scelto di costruire il mio saggio, di partire da questo saggio su Kant, no? Perché la metterò in maniera molto semplice, ma se uno pensa che cos'è la filosofia, è una domanda piuttosto complessa, no? Ma in genere si tende a immaginare uno sforzo teorico, no? Di appunto comprensione della realtà. Cosa comincia già a dire anche a rispondere completamente all'accademica. No? Sapete che nel concetto di teoria greco è implicito il verbo vedere, no? Cioè orao, no? Quindi il gesto teorico sarebbe il gesto di colui che contemplando da qualche parte una verità che sta nascosta alla maggior parte della gente comune, in qualche maniera ha una visione migliore delle cose, fornisce teorie per la trasformazione, se uno vuole la trasformazione, oppure se, come Hegel ritiene, si tratta in realtà di comprendere l'unione della realtà, in qualche maniera il filosofo coglie la verità delle cose perché riesce a vederle meglio gli altri. Scusate la rozzezza dell'argomento, ma è un po' così, no? Ecco, invece credo che Foucault stesso diceva, no? Che da un momento all'altro il secolo sarebbe diventato deleuziano. In qualche maniera lui, come dire, replica, no? Quel gesto filosofico di Deleuze che dice che i filosofi pensano là dove soltanto ci sono delle verità che costringano a pensare, no? E dentro questo ragionamento su che cos'è la verità si apre appunto un gesto filosofico di tipo radicalmente nuovo, perlomeno quello che io trovo affascinante, no? Che cos'è la verità per Foucault, appunto? Come diceva prima Marco, è un po' la posta in gioco di una battaglia di fatto, no? Cioè è la posta in gioco di uno scontro, di una lotta, tra la quale insomma, no, si decide in qualche maniera quella partizione fra vero e falso che poi governa attraverso i rapporti di potere. No? Cos'è la transizione biopolitica o la transizione al biopotere per Foucault? Il fatto che da un certo punto in avanti il luogo di questa battaglia circa che cos'è la verità diventa il mercato, diventa molto banale questa cosa qua. E anche qua, scusate, sarò molto triviale, ma perché mi pare che se dobbiamo discutere, no, si può fare così, no? L'unica cartina, diciamo così, di verighizione delle pratiche politiche neoliberali è l'aumento del PIL, scusate la banalità, no? Cioè, c'è una verità, tutta la politica deve essere orientata, no, a far crescere il PIL come se fosse autoevidente. Cosa però ecco, in questione nel gesto filosofico di Foucault c'è molto di più, no? Come diceva giustamente Francesco, c'è un gesto kantiano che non ha nulla a che vedere con un ragionamento appunto di tipo normativista, ha a che fare con un saggio specifico di Kant, che è quello su che cos'è l'illuminismo, cioè qual è il senso della critica. Appunto, la critica non è quel gesto del pensiero che si esercita a partire dal fatto che siccome noi sappiamo la verità critichiamo l'inautenticità di ciò che è, no? Pensando che siamo dentro un mondo, diciamo così, di ombre, di nuovo replicando un vecchio gesto platonico e immaginando che la critica sia portare la verità laddove non c'è, no? Questo un po' anche per rispondere a te relativamente a Heidegger, anche se parlavi di un'altra cosa, cioè, secondo me lì è un po' azzardato il paragone che facevi tu, perché insomma sai della sottilità in Heidegger in gran parte, no, costruita addosso di questa dialettica tra autentico e inautentico. Io credo che a Foucault non ne fregasse fondamentalmente nulla di cose, anzi credo che, no, applicando un gesto di alcuni degli epigoni della scuola di Francoforte, alla fine stare anche nel mondo inautentico nel quale siamo non è così scomodo, no? Il problema fondamentale però è questo, cioè che cos'è la critica? In quel saggio di Kant abbiamo il Kant che appunto si chiede, no, che cos'è l'illuminismo, abbiamo una serie di prese di posizione molto significative, perché ponendosi quel quesito, Kant fondamentalmente si pone il problema di che cos'è la modernità del pensiero, no? Di cos'è la sua modernità e di come fa un pensiero a pensare la realtà nella quale è preso. Non so se riesco a spiegarmi, no? Io credo che quello sia il gesto filosofico che poi Foucault replica in tutte le sue molteplici prese di posizione. Cioè, come dice lui, fare un lavoro al limite di quello che siamo. No? Cioè, stare in una posizione curiosamente interna e esterna alla realtà che ci costituisce, nella quale ci costituiamo come soggetti di politica, come soggetti di pratiche, e nelle quali quindi, come capite, quella tipica dialettica tra potere e contropotere viene immediatamente fatta saltare, no? E voglio giocare con la suggestione che proponeva lui prima, per esempio, delle politiche della formazione, perché anch'io sono stato professore al liceo per un sacco di anni, no? E quindi, come dire, mi interessava molto. Il problema non è, capisci, secondo me, ragionare come se appunto le politiche della formazione neoliberale, no? Il lessico delle risorse umane, i portfolio individuali delle conoscenze, queste cose così, fossero semplicemente il modo attraverso il quale il potere precostituisce, imprinta, costruisce i soggetti, no? Come se appunto fosse di nuovo possibile immaginare una contrapposizione secca fra l'agire del potere, un gesto di disvolamento che in qualche maniera lo smaschera, e quindi l'attuarsi di dinamiche di contropotere a partire da quei soggetti che si libererebbero una volta scoprissero di essere costruiti, costituiti, e quindi potessero immediatamente rovesciarsi, no? Cioè, rovesciare questo tipo di direttrice del comando. Dicevo, il nostro uomo è sempre un uomo curiosamente interno e esterno. Siamo certo costituiti da processi del potere, stiamo dentro questo mondo in qualche maniera falso, no? Ma contemporaneamente siamo, come dire, quella risorsa che è costantemente, in quanto soggetti, in quanto libertà, questa è la cosa fondamentale, secondo me, che dimostra che hanno ragione Marx e Toni, e non sicuramente i miei colleghi, no? In quanto agenti liberi, no? Siamo sempre dentro questa curiosa dinamica per cui siamo contemporaneamente ciò che obbliga, ed è questo il gesto marxiano fondamentale di Foucault, no? È la libertà che spinge la trasformazione del potere, no? Questo poi ci volevo tornare prima, dopo parlando proprio di governance, no? Perché il problema poi è questo, no? Scusate, sto facendo un casino, ma Foucault dice questo, cioè il mio problema è, allora, comprendere come, lo dice poi alla fine della sua vita, no? Il mio unico problema filosofico di tutta la vita è stato comprendere come gli uomini vengano governati attraverso la produzione di verità, cioè in quella distinzione fra vero e falso, no? Dicevo, la transizione della biopolitica è essenzialmente il fatto che questa partizione tra ciò che è vero e ciò che è falso ormai accetta come principio di realtà semplicemente il mercato. Dentro questo ragionamento complessivo, tutte le battaglie per definire che cosa sia la verità e cosa sia invece la non verità definiscono rapporti di potere, no? Lui, nel corso che precede questi due corsi recentemente prodotti da Feltrinelli, cioè il corso su bisogno difendere la società, parla proprio del rovesciamento del principio di Clausewitz, cioè il fatto che dobbiamo, non come diceva Clausewitz, grande teorico ottocentesco della guerra, ragionare sul fatto che la guerra è il proseguimento della politica con altri mezzi, dobbiamo ragionare sul fatto che la politica è il proseguimento della guerra, cioè è un gioco strategico, no? Di rapporti, in cui i rapporti di potere vengono scatenando e decidendo battaglie in relazione a che cosa è vero, che cosa è falso, in relazione a come si governano gli individui e così via. Però attenzione, è un orizzonte conflittuale, un orizzonte di questo tipo qua, no? In altro luogo Foucault ci spiega, secondo me in maniera straordinaria, ed è questo che dicevo il gesto marxiano, no? Che noi comprendiamo la trasformazione del potere, anzi rendiamo visibile il potere, possiamo cominciare a porci il problema, diciamo così, dell'esistenza di un potere soltanto laddove qualcosa ce lo rende decifrabile, laddove c'è una specie di catalizzatore chimico che ci permetta di dire, caspita, qui c'è un rapporto di potere, no? In altro luogo Foucault dice, guardate che del potere non possiamo dire nulla, possiamo dire semplicemente il fatto che c'è, e che in alcuni luoghi possiamo comprendere come funzionano le sue strategie. Cos'è il catalizzatore chimico che ci permette di definire che in un determinato rapporto umano c'è un potere? Cacchio, il fatto che qualcosa resiste, tu comprendi che c'è un rapporto di potere, una trasformazione di un rapporto di potere, soltanto laddove qualcosa dimostra di essere costitutivamente eccedente e inassimilabile. Questo significa che marxianamente, o con un vecchio gesto liberalista in cui sono affezionato, dobbiamo ragionare sul fatto che la libertà viene prima. E la libertà è quell'incomprimibile che il potere in queste battaglie strategiche deve continuamente inseguire, no? Nei suoi territori, trasformandosi e, come dire, cercando di stabilire una presa laddove una presa non può essere di fatto mai stabilita in termini, diciamo così, definitivi, no? Sono sempre battaglie che si decidono, la battaglia che qualcuno vince, qualcuno perde, tra che, siccome la libertà viene prima, la libertà immagina subito, no? altre territori sui quali ingaggiare battaglia, no? Per essere imbrigata. Questa è la, secondo me, la cosa fondamentale. Allora apro la prima parentesi, certo. Io credo, e sono convinto, ma non sono l'unico, che il ragionamento sulla governamentalità di Foucault abbia moltissimo a che vedere con la trasformazione nel senso della governance del potere. ripeto, se poi qualcuno volesse leggersi un bellissimo libro che cerca di dimostrarlo, no? Si legge il libro che Metelli ha tradotto da poco di Partha Chatterjee, no? Che si chiama Oltre la cittadinanza, laddove lui proprio cerca di ragionare in termini Foucaultiani, ma su una roba molto concreta, cioè la trasformazione della governance di una grande metropoli globale come Calcutta, insomma, no? Laddove lui spiega in maniera lineare, di nuovo, che la trasformazione, diciamo così, nel senso della governance, cioè, capite cosa significa, no? Di un rapporto di governo, di rapporti di tipo biopolitico, in cui non può funzionare una la verticalità classica secca dell'asse amministrativo come era nelle dottrine classiche del diritto, no? Per cui il sovrano decide, l'amministrazione esegue, no? E dimostra, Chatterjee, che ciò che fa saltare questa verticalità lineare dell'asse amministrativo obbligando l'amministrazione di Calcutta a modificare, no? E a trattare con la libertà sono le occupazioni del lungo l'asse della ferrovia che attraversa Calcutta degli immigrati a Calcutta, cosa che tra l'altro modifica un po' anche la nostra immaginazione, no? Che fa politica con gli immigrati su che cos'è l'immigrazione, no, non è l'assalto al nord del mondo, ci sono flussi migratori altrettanto incomprimibili e che comportano problemi seri anche all'interno del subcontinente indiano, c'è qualcuno che migra a Calcutta cercando lavoro a Calcutta, insomma, no? Beh, a Calcutta c'è, e così racconta Chatterjee, quest'asse della ferrovia che spacca in due la città, si sono formate delle bidonville, delle occupazioni di case, delle cose, che hanno obbligato per la loro complessità, per il fatto appunto che era il prodotto di una socializzazione in qualche maniera incomprimibile, gli amministratori di Calcutta a riconoscere le occupazioni, a fornire energia elettrica, a trattare con loro appunto la risoluzione di qualcosa che non poteva più essere immaginato come un problema di tipo soltanto, diciamo così, sociale, risolvibile con la polizia o con l'esercito, no? Quindi, di nuovo, questa questione per cui è la libertà a obbligare il potere a uscire, diciamo così, da questa grande fantasia sovranista, per cui, no, vi ricordate cosa fa il sovrano di Hobbes a Cinque? Colui che neutralizza, no? C'è una guerra di tutti contro tutti, c'è una dimensione, se volete, conflittuale prodotta dalla libertà che si manifesta ingovernabile, il sovrano viene, decide lo scontro, no? Taglia un po' di teste e come dire, con un'unica volontà rappresenta la volontà di tutti. Sapete come, no? Cioè, fondamentalmente escludendo gran parte di coloro che non si incorporano in quella volontà, d'accordo? Beh, la fuoriuscita da questo grande spettro, no? Della sovranità è imposta dal basso, no? Di nuovo. Neoliberalismo e governance. Beh, guardate che c'è un testo straordinariamente importante del 76 in cui il teorico, quello che attualmente è passato, è stato famoso come teorico dello scontro delle civiltà, no? Samuel Huntington, insieme con altri due, che hanno Crozier e non mi ricordo, e Batanati, scrisse un rapporto sulla crisi di governabilità della democrazia, in cui cominciavano appunto a porsi il problema di come si potesse governare, no? Su scala globale, ma soprattutto negli Stati Uniti, la democrazia, proprio nella misura in cui la democrazia si era dimostrata negli anni 60 e 70 portatrice di claims e di processi di soggettivazione che rendevano di fatto ingovernabili gli stati secondo la vecchia ottica sovranista. Ma capite di cosa parliamo? Parliamo delle lotte contro la guerra del Vietnam, parliamo di manifestazioni esplicite di disobbedienza e di rifiuto, parliamo del rifiuto del lavoro in Europa, parliamo della soggettivazione della questione di genere che faceva saltare gli schemi welfaristi dello Stato americano, cose di questo tipo. Quindi capite? Cioè, prima c'è l'insorgenza, c'è la disobbedienza, c'è il rifiuto. E poi, caspita, di nuovo questi si pongono il problema, come caspita facciamo governare questa cosa qui, trasferiamo appunto la verticalità dell'asse amministrativo su processi di compromesso e di governamentalità. No? Come? Facendo intervenire l'amministrazione, aprendo trattative, provando a spaccare i fronti, portando sotto controllo ciò che può essere portato sotto controllo e lasciando che altre cose invece, che poi la governance è questa roba qui, è polizia laddove non si riesce a fare niente, reclutamento e cooptazione laddove si può, è compromesso laddove siamo costretti, no? Per parlare un altro vecchio operaista veneto, di fare quei che pole, come che pole, dove che pole, ma così funziona in capitalismo, eh? Cioè non c'è un centro di potere occulto che in qualche maniera, no, programma, organizza, fa disciplina, quel cavolo, fanno quello che possono, poi hanno gli strumenti per farlo, no? più di altri, ma fanno quello che possono, dove possono. Io penso che quando ragioniamo di governance, ragioniamo su questo, per cui c'è, se a Roma si è aperto uno spazio di governance in altri posti no, è probabilmente perché qui qualcuno, qualche soggettivazione politica e di esperienza molto significativa, si è aperta agli spazi per obbligare, no, a una come dire, flessibilizzazione della generalista. Ah, laddove non ci si riesce, e caspita come fanno? Fanno come se fanno, insomma, no? Questo ci tengo, perché se voi seguiste un po', magari qualcuno di voi lo farà, un po' della letteratura che circola sulla governance, sembra che il problema della governance sia semplicemente un problema di maggiore efficienza, no? Cioè lo Stato, da un certo punto di vista, o gli apparati amministrativi dello Stato, comprendono che per far funzionare meglio le cose, no, è meglio come dire, flessibilizzarsi. Col cavolo, ripeto, cioè la libertà viene prima, e questo, secondo me, è l'autentico testo marziano di Foucault, che peraltro con Marx non abbiamo ottenuto un po', no? Però è questa cosa qua, cioè comprendere che esattamente come aveva compreso Marx, insomma, no, che prima viene la libertà, prima viene la libertà. Fare un lavoro, allora, al limite di ciò che siamo, che è replicare il gesto kantiano, no? Su che cos'è l'illuminismo, evidenzializzare il concetto di verità, significa ragionare la verità è un evento, è la posta, se volete, semplicemente di scontri di potere, no? Di battaglie e di strategie, significa dover ragionare sul fatto che nulla, questa secondo me è la cosa filosoficamente più significativa di Foucault, anche per le pratiche sovversive, che nulla di ciò che abbiamo davanti è necessario, no? Il ragionamento sulla contingenza, il ragionamento appunto sull'aleatorietà, no? Se noi cominciamo a ragionare, come fa Foucault, che qualsiasi concetto o categoria del pensiero storico, che qualsiasi categoria o concetto del pensiero politico non rappresenta un universale o un'idea, ma piuttosto è, diciamo così, semplicemente nel fluido aleatorio dei possibili, qualcosa che è stato deciso da una battaglia, e beh, capite cosa significa questo? Significa produrre un effetto di mobilitazione della nostra immaginazione, di mobilitazione del lavoro storico, e soprattutto avere di nuovo a disposizione tutta una gamma dei possibili, no? Che possiamo anche riattivare dal passato, per esempio, quando scopriamo che c'è stata una tradizione che semplicemente ha perso una battaglia che può essere in qualche maniera riattinta, no? Voglio dire, è noto che nella teoria dello Stato moderno ha vinto quella che Tony chiama la linea trascendentalista di Hobbes fino a Hegel. Ma c'è un'altra tradizione maledetta del moderno, che è quella di Machiavelli, Spinoza e Marx, no? Non è che si possa sempre, come dire, dare per scontato che siccome questa tradizione è stata soffocata, ha perso una battaglia e così via, là non abbiamo strumenti per pensare il nostro presente, le nostre pratiche di liberazione. Perché quella vittoria, no? Diciamo così, di linea trascendentalista, è, come dire, ha rappresentato semplicemente, per quanto pesante, costruzione della realtà che può essere costantemente rimobilitata nella misura in cui si modificano i rapporti di forza, no? Io per esempio sono, ricordate la leggenda cabalistica, no? Di cui parla quel giurista straordinario nazista ma molto interessante, che è Kashmir, no? Cioè, il Leviatano, questo mostro di grande potenza, che è un simbolo biblico, che Hobbes adopera, no? Per definire lo Stato, il sovrano, è in realtà una specie di cucciolone, no? Che secondo questa leggenda cabalistica Dio evoca ogni tanto per poterci giocare un po' e poi abbatterlo. Cioè, il Leviatano, lo Stato, è un animale mortale, eh? E io penso che ragionare di potere biopolitica significa, o di governance, significa doverci cominciare a confrontare col fatto che lo Stato, le sue categorie, i suoi concetti, cioè ciò che insomma quella vittoria ha stabilizzato per molto tempo, è mortalmente malato, mortalmente malato, lo dimostra il processo di globalizzazione, lo dimostra la progressiva obsolescenza della centralità dello Stato nazionale anche come vettore di territorializzazione dei flussi del lavoro, lo dimostra un sacco di cose. E qui, ripeto, se cominciamo di nuovo a pensare che anche dal punto di vista di mediazione sovversiva, perché il caso di Calcolo San di questo parla, cioè. E allora così ricomincio a rispondere a Francesco. Cioè, la novità di questi corsi di Foucault, ripeto, se teniamo insieme la scaletta che ho provato a mettere un po' insieme, anche se in maniera confusa, cioè, ci sono, noi pensiamo soltanto da dove le verità ci costringono. Qual è la verità che obbliga Foucault di nuovo a una di quelle mosse del gambero, no, che lui spesso rivendica, no? Sapete, lui continua a dirci in tantissimi scritti, guarda che io insomma non sono mica un autore, non me ne frega niente, a me non interessa fare il filosofo, no? A me interessa dentro queste partite, no? Giocare delle partite, insomma, dentro questa contingenza del pensiero, delle pratiche di liberazione, a me interessa giocare delle partite, eh? E allora, capito, cioè, fare di Foucault o quello che deve essere cancellato o viceversa un'ennesima figurina del Pantheon dei grandi filosofi sono due cose che a me non interessano nessuno, che non avrebbe interessato nemmeno a lui, eh? Sapete che quei francesi hanno il Pantheon, no? In cui mettono appunto i monumenti del pensiero, ma fanculo avrebbe detto Foucault, eh? Foucault è uno che appunto gli interessano le pratiche disciplinari della psichiatria e le questioni di normalizzazione della sessualità perché è omosessuale, scusatemi la trivialità, e se si legge le sue riflessioni autobiografiche, cacchio, gli hanno fatto fare 6 anni di esilio fuori dalla Francia per andare all'università perché era omosessuale, insomma, no? Il suo ragionamento sulle istituzioni repressive è motivato dal fatto che uno degli punti fondamentali in quegli anni 70 dell'insorgenza erano le rivolte di carceri americane, la rivolta delle carceri di Attica, e allora lui comincia a ragionare sulla prigione. Lui si prende le cariche della polizia perché fa le lotte per la liberazione dei compagni spagnoli condannati a morte da Franco, o viceversa perché fa le lotte con gli immigrati a Parigi, insomma, cioè, capite? È stare dentro le cose. Beh, che cos'è che porta Foucault a di nuovo a rinnovare tutto e a dire, caspita, il problema adesso, a metà degli anni 70, è la governamentalità, cioè questa transizione in direzione del mio potere e della mia politica. Perché evidentemente qualcosa succede. La cosa che succede è, secondo me, fondamentalmente, che lui è uno dei pochi, all'epoca, tra gli intellettuali, a cogliere la portata di innovazione dei movimenti politici degli anni 70. Comprendere appunto di nuovo che lo Stato stava morendo e che se c'era una cosa che contraddistingueva gli aspetti più innovativi della teoria politica, in particolare italiana, del 77, degli anni successivi, parli di cose sono 77, 78, 78, 79, non per caso, era il fatto che a questi, ai protagonisti di quei movimenti, ai protagonisti del rifiuto del lavoro, ai disertori del Vietnam, di prendere il potere non gliene fregava più niente. Non gliene fregava più niente, avevano compreso che probabilmente non c'era più un palazzo d'inverno, no? Avrebbe significato trascrivere tutti i rapporti sociali, no? Con una rivoluzione di tipo classico, di tipo classico sovranista, in cui appunto, capite, prendere il potere avrebbe significato avere finalmente di nuovo in mano le leve del comando amministrativo e disegnare la società a partire da una pianificazione in qualche maniera verticale. A quei movimenti non gliene fregava più niente, là in ballo era un'altra cosa. Era in ballo un desiderio di libertà, di liberazione dei rapporti di potere, di liberazione dal lavoro. E allora, se questa è la traccia, no, del presente da pensare, è evidente che, questa forse ricompongo troppo anch'io, no? Ma è evidente che Foucault si pone il problema di una trasformazione della politica complessiva, che sarebbe stata poi orientata da questa nuova idea, no? Da questa nuova pratica della libertà. E la trascrizione dei rapporti di potere che avrebbe di questa avrebbe di fatto obbligato. Io credo che sia questa la novità. E allora anche ragionare sulla biopolitica neoliberale, che cosa significa? Perché, no? Ragionare sull'economia e sulla tradizione dell'economia politica, no? Perché ragionare appunto sul problema della popolazione invece che sull'individuo disciplinato, della società disciplinare? Beh, essenzialmente perché sul terreno del mercato, sulla posizione dell'economia politica, appunto si afferma un concetto di libertà, no? Se volete, la libertà commerciale, la libertà della civil society degli scozzesi, no? La circolazione, no? delle intelligenze, degli scambi, delle utilità, che in qualche maniera si programmaticamente nel liberalismo classico si propone di ricavare degli spazi di cooperazione totalmente indipendenti dal potere. No? E che obbliga appunto a ritrascrivere il potere su una, diciamo così, su una, uno stile di intervento che è permanentemente a rischio. Ed è questa, secondo me, la cosa più interessante, no? Adesso senza entrare nei dettagli di cosa significa amministrare una città pestata invece che fare il lazzaretto, o di appunto che cosa significa fare delle riforme della scuola che cercano di produrre degli studenti imprenditori di sé, no? Invece che fare la vecchia scuola elementare disciplinare in cui il problema era sfidare ciascuno, come dice Foucault, no? Il pinglé, ogni singolo la sua individualità, per poi fargli fare la stessa cosa in una catena di montaggio di fabbrica. Capite che sono due cose diverse. Un conto è la scuola elementare che ho fatto io, che sono molto più vecchio di voi, in cui appunto il problema era disciplinare un individuo a tenere una posizione in una classe, vuol dire che molte ore del giorno, oltre che a fare dettagli elementari, c'è il problema di la ripartizione dei tempi, degli spazi, dei gesti, della corporalità, ma caspita, lì il problema era, no, poi io ho fatto il classico, eccetera, ma tutti i miei compagni elementari sono cresciuti in un paesello del Veneto, sono finiti a 13 anni a lavorare in fonderia. Il problema era, capito, disciplinare un individuo a mantenere il suo posto, no? Capite bene che invece ragionare sul portfolio delle competenze significa di nuovo assegnare all'individuo la responsabilità di se stesso dentro un ragionamento completamente diverso. Beh, ma al di là di questo, quello che secondo me è decisivo dentro questo, questa transizione è appunto il fatto che il mio potere liberale, se si esercita su processi che hanno una loro autonomia di movimento, perché sono costantemente intessuti da pratiche di libertà, come sono quelle che si affermano sul terreno economico, beh, ciò che viene richiesto al potere è di agire sempre su un crinale sottilissimo, di nuovo, eh? Cioè sul crinale che c'è tra un eccesso di intervento e una carenza di intervento. E io credo che quando Foucault ragiona sulla governamentalità, sulla governance e su, lui non usa il termine governance, ma su questo, parla su questo crinale che è lo stesso nel quale siamo ancora presi noi quando stiamo di ragionare sui poteri che ci, con i quali, non capire che ci controllano, ma con i quali ci interfacciamo. Perché? Perché tutto lo scambio economico, dentro le teorie liberali classiche, non può fare a meno. Il discorso di Foucault sul potere della politica è anche ragionamento sul welfare, eh? Cioè, se tu lasci lo scambio economico procedere secondo la sua razionalità, no, secondo la sua assoluta libertà, capisci? Hai dei costi sociali che diventano altissimi, perché chi non è all'altezza cosa fa? Va disoccupato, se ne va per strada, finisce a fare il tossico, cioè, ed è su questa cosa che allora si modificano, no, gli apparati del controllo, si modificano gli apparati disciplinari, si costruiscono tutti quegli interventi dello Stato su un terreno diverso, perché non hanno semplicemente il problema di controllare, ma hanno il problema, diciamo così, di ristrutturare l'esercizio della libertà anche quindi chi in quel momento ne risulti sprovvisto, per esempio. Io credo che da questo punto di vista queste cose sono utili anche per ragionare sulla legge di cittadinanza, proprio questo qua, perché si chiede di nuovo, diciamo così, un intervento costante dal punto di vista dello Stato. Dall'altro lato però lo Stato non può nemmeno intervenire troppo, perché se interviene troppo pianificando, controllando e così via, fa cessare questo vivente scambio, che è questa vivente cooperazione, che è la cooperazione più politica. Riesco a spiegarmi? La razionalità del governo liberale che interessa a Foucault in questi corsi è esattamente questa cosa qui, una trasformazione degli apparati di potere in biopotere, perché hanno a che fare con una, diciamo così, dimensione metabolica di scambio incessante, con una libertà che non dipende da loro, che deve essere lasciata fare, che chiede allo Stato di essere lasciata fare, e che tuttavia, perché per poter essere lasciata fare, richiede comunque in maniera intermittente, parziale, settoriale, costanti interventi allo Stato. Ma capite bene che è un crinale sottilissimo da tenere, ed è un crinale sottilissimo che ci permette anche probabilmente di immaginare le battaglie che possiamo scatenare, no? Laddove in qualche maniera questo ci torna utile, laddove puoi fare delle battaglie che puoi vincere, sfruttando momenti, diciamo così, o situazioni di maggiore debolezza della tua parte, insomma. Secondo Foucault, insomma, ciò che in qualche maniera queste trasformazioni del concetto di libertà dimostrano negli anni 70 è essenzialmente questa cosa qua, una libertà che cresce, che conduce circuiti di autovalorizzazione, circuiti di socialità e così via, totalmente sottratti sia all'imperativo di prendere il potere, perché non deve fare niente, sia alla diciamo così, capacità preventiva della politica o del potere di organizzare la cooperazione. Insomma, se volete banalmente, il proliferare delle parti dove vengo io, che è il Florida e l'Oregon Nord-Est, no? Il proliferare dell'outsourcing, dei distretti industriali, così via, nascono esattamente dentro questa tradizione qui, cioè la grande fabbrica non funziona più. Meglio fare che cosa? Sfruttare il desiderio di libertà dei piccoli operai che se ne vanno, e esternalizzare pezzi di produzione, piuttosto che continuare a mantenere il vecchio sogno, se volete, a desinenza panottico sovranista, che è quello della grande fabbrica fordista. Capite? Di nuovo, è un sistema di governance. E cosa fai? Sfrutti i desideri di autovalorizzazione e di libertà, e però provi a controllarlo combattendo delle battaglie che talvolta vinci, però anche visto che in qualche maniera quel dispositivo per un po' di tempo ha funzionato. Io credo che Foucault sia uno dei primi a intercettare questo tipo di ragionamento qua. Non so se ho risposto. Foucault e l'Accademia, certo, no, io credo che lì sia proprio, beh, diciamo così, questa è una nota a margine a quello che diceva Francesco, io credo che gran parte della recensione delle opere, partire dal detto adesso io le cose quelle importanti, credo che gran parte della recensione italiana di Foucault di adesso, ma anche degli anni 70, è stata da un incontro mancato. Cioè, ripeto, quando non so se avete le coordinate storico, filosofico, politico, ma insomma, gli anni in cui Foucault comincia a occuparsi di queste cose sono gli anni in cui, in assoluta controtendenza a questo ragionamento, le parti più avanzate della filosofia politica italiana ragionavano sull'autonomia del politico, assecondando la svolta di governo del PC, no? E così via. Per cui esattamente nella direzione ipersovranista e iperverticale. Per cui quando Foucault cominciava a ragionare di microfisica dei poteri e così via, già non capisce niente, non ci serve. Eh? Dal punto di vista dei movimenti andò più o meno così, perché si pensava che leggere Foucault come teorico appunto della reclusione o teorico del storico della follia e così via significava, da un certo punto di vista, come dire, andare in controtendenza rispetto alle esigenze di ricomposizione del soggetto rivoluzionario, perché la microfisica serviva, diciamo così, a ragionare su una teorizzazione e una frammentazione eccessiva, no? troppo settoriale. Adesso è peggio ancora, però, perché appunto adesso c'è questa lessico della geopolitica che è diventato un lessico passepartout, no? In cui appunto questa importante collega di cui può parlare benissimo perché è nella mia commissione di concorso usa appunto Foucault in termini di geopolitica per applicarlo a qualsiasi fenomenologia, dai brevetti dell'OGM alle politiche sull'immigrazione a qualsiasi cosa che, diciamo così, ecceda la gabbia ristretta della soggettività di diritto e di processi di formalizzazione che deve essere ovviamente su quel piano là, ma non significa niente, insomma. Cioè, secondo me, lo dico in maniera molto radicale, e probabilmente si può cominciare a fare un uso sensato di queste indicazioni di Foucault, ma attenzione, no? Sempre accettando, non tanto dico di rigorizzare Foucault, di fare quella vecchia operazione, no? Idealistico. Storicista che era molto in voga all'Accademia quando cominciamo a studiare io, che cosa ha veramente detto Foucault? C'era una collana, no? Che cosa ha veramente detto? No? Foucault ti direbbe lui stesso, non so che cacchio voglio dire io alla fine, eh? Cioè, Foucault, cioè, ha questa cosa che trovo strepitosa, no? Questa citazione che tendo a mettere quasi in esergo molte delle cose che provo a scrivere, no? Dice che la filosofia non è fatta per comprendere, è proprio un gesto anti-hegeliano al massimo, è fatta per prendere posizione. Per fare attenzione dentro queste battaglie qua, allora dicevo, se probabilmente Foucault ci può servire, perché lui sarebbe contento, per prendere posizione dentro questa griglia, no? di tattiche, di battaglie, di strategie, probabilmente ci può servire soltanto appunto se facciamo un uso molto parsimonioso del termine geopolitica, perché se no, come dire, ripeto, tipo, geopolitica si intende, si definisce come prendere qualsiasi cosa. Diciamo così, chiamiamo più politica quella cosa che secondo me dice tutto, insomma, no? questo terreno nuovo di scontro fra libertà e imbrigliamento, no? La forma della cooperazione che cedono programmaticamente qualsiasi forma di organizzazione dall'alto e il tipo di organizzazione del potere che è costretto ad inseguire, insomma, io sono politica per questa cosa qua, infatti non faccio uso molto passimonioso al mio lavoro. Poi una cosa che facevi in mente prima tu, e poi io mi fermo anche se vediamo questo, noi andiamo avanti, se siete scritti ci fermiamo, la questione delle risorse umane però, no? Perché questa mi piace molto, no? non so quanti voi lo sanno, ma certo Foucault dice, guardate, che una delle grandi innovazioni della realizzazione proprio dei processi della formazione neoliberale è il ragionamento, il lessico delle risorse umane. No? Cioè il fatto appunto che dagli operai in fabbrica all'esercito industriale di serra gli studenti non sono più, diciamo così, semplicemente oggettivati come individui al lavoro e così via, ma sono risorse umane, no? Dobbiamo mettere appunto questo è l'intervento di governo critico che dicevo prima, no? Cioè non possiamo controllarli, non possiamo in qualche maniera organizzarli, però possiamo lavorare a governarli in modo tale che vengano messi nelle condizioni di fare un uso appropriato della loro libertà, no? E tutte le trasformazioni, secondo me, dei processi di formazione neoliberale giocano su queste cose. Però ecco, la cosa che mi ripeto, sempre dimostrare che poi le soglie epocali sono sempre, come dire, vocali o quantomeno mai così assoluti. Sapete che il lessico delle risorse umane è una lezione, no? Per ricordare che poi il problema è rompicapo, è sempre piuttosto antico, no? Non li inventano i neoliberali, eh? Cioè, la prima volta che, una delle prime volte che viene usato il termine di risorse umane è nel Congo belga, applicato agli schiavi del 30 giorni, cioè, nel senso che... Quando? Metà 700. Ah, 700. La questione è questa, cioè, capisci che l'imperativo di popolazione far crescere e moltiplicare, cioè, tu adesso non voglio tornare in particolare alla ragione di Foucault, ma questa genealogia del mio potere radica nel potere pastorale per Foucault, no? Cioè tutta una tradizione biblica, no? E vi ricordate qual è il comandamento biblico? Crescete e moltiplicate, no? Beh, caspita, sì, dal punto di vista del padrone di schiavi è un imperativo biopolitico, perché significa anche, come dire, far crescere la popolazione, eh? Cioè, dentro il ragionamento del coloniale, cominciare a ragionare sul fatto che gli schiavi non sono semplicemente, no, e soltanto meos e psicos del padrone, come diceva Aristotele, no? Cioè aratri, chi se ne frega, se ne trovi butti via, ma sono capitale umano, il che significa capitale al quale si deve applicare una cura governamentale tale per cui non semplicemente lavorano con la frusta e così via. Sicuramente sta molto ovviamente il concetto che tu hai espresso della modernità nella premessa che hai fatto del libro che hai curato di Giacobbi Neri, che insomma è bellissimo, c'è stata la presentazione estera, insomma è un libro molto bello, anche secondo me anche quello va letto, insomma. E lì tu introducevi il concetto di modernità, insomma, che è interessantissimo, e il rapporto tra Foucault e la modernità. È complicato, fammi pensare un po'. No, però no, là nella parte di Giacobbi Neri usavamo quel termine, ma perché mi interessava ragionare sul fatto che la modernità non è un processo, diciamo così, autopoietico, teleologico, scusate le parole difficili, no? insomma, spesso quando ragioniamo appunto sulla schiavitù, sull'immigrazione, sull'Occidente, no? Tendiamo a ragionare su una specie di lineare espansività, no? Dell'Occidente, una espansività talmente lineare che spesso obbliga a bombardare altri paesi con l'esportazione della democrazia. Nell'ideologia, diciamo così, spesso, no? Sembrerebbe che appunto il peccato, la schiavitù sia un residuo e che in qualche maniera la sollevazione dei Giacobini sarebbe stata inutile, perché progressivamente, no, la schiavitù sarebbe finita in virtù di una specie di teologia interna dell'idea di progresso. Eh? Ecco, io credo che il ragionamento di Foucault sia molto utile anche in questa direzione qua, nella misura in cui appunto ci dimostra che qualsiasi movimento, no, storico, qualsiasi, diciamo così, progresso, tra virgolette, non dipende da una linearità. Non è mai lì. Che ogni, diciamo così, avanzamento, spostamento, per esempio riorganizzazione dei codici del potere è determinato da insomma battaglie di fatto, e soprattutto non è mai, diciamo così, pervasivo da poter essere immaginato come agente su tutti i livelli, no? Perché sennò, capite, nell'ideologia sembrerebbe che il processo di modernizzazione, la modernità, il progresso, chiamate tutti voi, fosse semplicemente una specie di fiume, no, evolutivo, che progressivamente c'ha dei ritardi, delle sfighe, però prima o dopo, no, tutto rientra. E invece, diciamo così, Foucault ragiona, secondo me, come cercavo di dire, su situazioni locali, insomma. No, su razionalità locali, no? In cui appunto una battaglia può essere vinta, obbliga ad organizzarsi il potere su un determinato terreno, però su un altro terreno rimane molto indietro e così via, insomma, no? E soprattutto il fatto che la modernità, il progresso, è sempre la posta in gioco aleatoria di rapporti di forza, quello che è stato, cioè, classicamente la questione, no? Nel caso specifico di Giacobbi Neri, c'è tutto il mio parla di quello. Devo storinare per questa cosa, perché James, secondo me, la sottolinea molto bene, insomma, no? Quando dice, insomma, che parte ha lo schiavo nella storia dell'Occidente, insomma, no? Lo schiavo nero di questa cosa di tanta gioia. Perché se tu leggi, come dice James, gli storici del capitalismo, sembrerebbe che questi fossero appunto, come l'ideologia della schiavitù, muti, zitti, totalmente repressi. E poi questo, no? Sempre, se vuoi, giochino invece marxisti. Come fanno ragionando, secondo me, sulla realtà delle cose, no? Facciamo per l'urgenza. Un altro libro che auspico che venga ripubblicato a breve è quello di Wong, che avete detto, lo schiavo nero da tramonto all'alba, l'inversione radicale della giornata lavorativa dello schiavo. Chiedersi che cosa capita facendo nelle piante di giorni, gli schiavi, la notte. E come dire, lui ricostruisce tutta una lunghissima tradizione, no, di autoformazione, di sorgenza, questi qua dicevano, studiamo, scappavano dalla piazza a trovare i Marus, che erano gli schiavi fuggiaschi, li portavano a mangiare, tornavano e poi all'alba lavoratori disciplinati nella piazza giù. Capite? Dire che lo schiavo, no, ma guardate che trovate un sacco di storici bianchi della schiavitù, no, pieni di questo pietismo, no? Per il povero schiavo, trattati male, repressi, rovinati, crocefissi, no? Ed è così, perché la storia della schiavitù è una storia di orrori, insomma, no? Cioè, nel caso della rivoluzione dei riti si documentano, per esempio, per tornare sul lessico delle risorse umane, forme di resistenza radicale che erano quelle che per le donne schiave che si procuravano da sole l'aborto con i ferri da calza, che penso sia anche una cosa orribile, no? Essenzialmente per andare a, come dire, a contrastare la valorizzazione sull'unico terreno dove potevano, cioè, no? Rischio di ammazzarmi io, ammazzo mio figlio pur di non dare un plus valore, no? Anche su questo terreno al padrone degli schiavi, che se non uno schiavo in più. Capite? E secondo tutta una lunga tradizione, appunto, il tempo della schiavitù è un tempo del silenzio, della repressione senza resto, no? Ecco, secondo me invece di nuovo, ecco, se vuoi, no, un gioco che Foucault comprende bene, James comprende bene, ma chi sta nelle cose comprende bene, no? Cioè il fatto che di nuovo anche l'abolizione della schiavitù, cioè c'è questa citazione che faccio sempre di James, l'ho fatta e continuerò a fare, quando lui dice, insomma, no, guardate che le uniche pagine in cui gli schiavi non si rivoltano, no? Sono quelle degli storici bianchi capitalisti, insomma, no? La storia della schiavitù è una storia costante di resistenza, la resistenza sulle navi, le resistenze, come dire, che per le quali decine di schiavi si immolavano suicidandosi, la resistenza che portava a costruire comunità di fuga, no, i Quilombos, le comunità di maronage all'interno delle isole delle piantagioni, dove sono documentate presenti decine di migliaia di schiavi, gli schiavi fuggiaschi che andavano a fare la rivoluzione negli Stati Uniti, insomma, quelli dopo la rivoluzione di Haiti che vanno a spargere il verbo, no, del fatto che i neri possono rivoltarsi da soli, mettere in piedi la loro repubblica dentro tutte le altre isole caraibiche, dalla Giamaica alle Windward Islands a Cuba, insomma, no? Questa è la cosa, no? Di nuovo, in maniera molto, molto foucaultiana, il fatto che anche in quel caso l'abolizione della schiavitù, che per i bianchi progressisti illuministi era riportato dall'iniziativa parigina benevolente, no? Della pietà degli bianchi, oppure il portato di un'idea autopoietica di progresso che prima o dopo avrebbe riassorbito anche questa schifezza che era la schiavitù, no? James ti dice, Foucault ti dice, Marx ti dice, è il portato della soggettività di questi, insomma, no? Che obbliga progressivamente, quando questa crescita, no, della ribellione, dell'insorgenza si fa eccessiva per qualsiasi sforzo di imbrigliamento, ad organizzare altrove un altro modo di imbrigliamento stesso di questa realtà. E allora in questo caso, secondo me, certo c'è qualcosa, no? Se vuoi di nuovo questa straordinaria insistente, no? Sempre ripresa, sempre rincorsa, spinta che è quella della città. E allora quindi poi certo ti vuoi dare schiavitù e cosa si fa? Come dice James, si cominciano a aprire le fabbriche, anche di carri neri, cioè la schiavitù ha un'altra forma di imbrigliamento che è quella del salario, magari salario differenziato, no? Di nuovo le cose non sono belle, no? Tengono la schiavitù dove possono, in altri paesi lavoriscono, però fanno regimi di salario differenziato, forme di imbrigliamento, come dire, tipiche del compromesso fordista americano, per cui i sindacati non organizzano il merito, i sindacati ufficiali, no, fordisti. E di nuovo la spinta di questi, che con la autonomia costruiscono prima le organizzazioni, poi penetrano dentro le EFL, poi fanno le pantelle nere, insomma, cioè, sempre meccanismi, no? Di eccedenza e di compressione, eccedenza e di compressione. Questo è il risposto, non è? Sì, vabbè. Un po' così. Vabbè, io una cosa proprio metodologica, sì. Una curiosità che mi è venuta, cioè che visto c'è una differenza, diciamo, che ho notato nel modo di procedere, no? Cioè di sorvegliare e punire, lui utilizza sia fonti diciamo, corte tipo Giovanni Bentham, il panopticon e anche, diciamo, saperi pratici di amministrazione delle carceri, non direttamente tesi ad implementare dei processi. Invece sulla governamentalità geopolitica mi pare che usi quasi esclusivamente fonti corte, intellettuali, cioè quindi come dire, cioè, o perché magari questo tipo di lavoro, come dire, era preparatorio ad una nuova, diciamo, metodologia, oppure non so come l'avete visto. Ma io ti dico, io sono sempre. Diciamo che io non ho la. Dispositivi di pensiero che rimandano, cioè che rimandano a fatti pratici, però non vengono, come dire, descritti, no? Mentre nel carcere vengono studiati in quanto tali. Guarda, io ti posso dare una risposta che rischia, però, ripeto, io sono sempre molto attento a cercare di non farlo, di costruire immagini di continuità, di organizzazione, no? Del ragionamento, perché nel caso di Foucault sarebbe controfattuale, appunto c'è di neanche. Io ho l'impressione che sia andata più o meno così. Lui avesse iniziato questa analisi sulla trasformazione di potere in politica e che, come dire, la genealogia che gli veniva richiesta, la questione delle cose, era proprio questo di ragionare sul potere pastorale, che significava, certo, una genealogia principalmente di fonte corte, anche perché un conto è quando ragioni probabilmente sull'individuo e l'esistenza individuale, ma un altro conto invece quando come dire assumere questo gioco aleatorio sui grandi segmenti di popolazione, no? Certo che però, guardate, tenete presente che sono fonti corte, ma è la polizia Wissenschaft, no? Come la chiama lui, che di cui mi sono trovato un po' scienza di polizia, non so, che però non vuol dire la polizia, questa qui è la polizia, è la trasformazione in senso in tedesco o in francese, che è una parola che ha una lunga costanza semantica, no? Dell'antico polizia, polizai, polizia, è l'antico termine di politia greco, no? Cioè l'amministrazione materiale, no? della città. Quindi quando si parla di scienze di polizia si parla delle prime trasformazioni del diritto amministrativo, no? Le prime codificazioni di fatto del diritto amministrativo, non più come diritto amministrativo classico, ma come amministrazione di processi complessi, no? Foucault, prima l'avevo detto, per esempio analizza questa trasformazione nelle città pestate, no? Giocando con questa contrapposizione, cioè appunto il codice della sovranità o include o esclude, guardate che quella è la forma di legge, o sei legale o sei illegale, eh? Il codice del sovranista è un codice di inclusione e di esclusione, la città del Lazzaretto, che è una città, diciamo, sicuramente amministrata dai termini sovranisti, cosa fai? Laddove c'è l'epidemia di lepra, cosa che comunque in Europa è moderna, prendi le prose, li porti, li segreti in un altro luogo, finita, no? La città pestata invece richiede tutt'altro, un altro tipo di dispositivo di questo, perché capite cos'è la città? Che la peste è portata con virus, circola, no? Allora come fai a governare una città in cui circola la peste, no? E questo obbliga appunto a una polizia della città, cioè a una amministrazione della città in cui, come dire, tutti i processi, cioè, c'è il problema di cercare di impedire il contagio della città, ma c'è anche il problema di mantenere quella città viva in quanto scambio di vento, cioè approvvigionarla, controllare le acque, controllare i movimenti della gente che non si sposta in troppo, sono porte, perché, ma viceversa devono poter uscire dalla città per andare ai campi a raccogliere le cose che stanno stando avanti. Quindi, cioè, è una roba molto complessa. Tra l'altro, un allievo di Foucault che ha scritto che adesso è un pezzo di merda totale, ma che ha scritto un libro, secondo me, che è François Zebrafi, che ha scritto un libro bellissimo sulla realtà per Nox, l'hai letto? No, ma è solo in francese, non è tradotto in italiano, cioè un libro strepitoso, che tra l'altro poi, come dire, prosegue questa intuizione ragionando per esempio sulle politiche di sventramento dell'organizzazione urbana di Parigi, no? Portando avanti il ragionamento della città pestata, dicendo guarda che a un certo punto, ed è una cosa che chi frequenta un po' quella che i francesi chiamano la letteratura industriale, no? Cioè tutto quel grande côté della letteratura francese dell'Ottocento, una grande letteratura, cioè parlo di Balzac, Victor Hugo, Jussieu, in Inghilterra, Dickens, che improvvisamente cambiano l'oggetto del romanzo, no? E il romanzo diventa la visualizzazione, la rappresentazione della città, dei suoi processi, no? La Comédie humaine, I Miserabili di Victor Hugo, queste cose così. Dicevo, chi legge questa letteratura, ma viceversa, come ho fatto proprio a fare io in altri miei lavori, legge i teorici francesi che si cominciano a occupare del sociale, no? I grandi liberali, no? Nei quali però, come dice qualcuno, emana anche il cattivo odore dei liberali, cioè tipo Tocqueville, Calvino, grande teorico della democrazia, grande teorico della prigione, per caso. Beh, là vedete che c'è una metafora che circola con un'esistenza terrificante, che è il contagio del socialismo. No? Beh, la trasformazione ulteriore della polizia, che dimostra i vari, è congruente con la nascita della virologia, no? Di Pasteur, la ricostruzione di tutto lo sventramento e la realizzazione dei grandi boulevard parigini, no? Viene prodotta con grande misura di polizia amministrativa, no? Appunto per evitare i contagi della peste. No? Allora capite cosa succede? Succede che tutta la Parigi medievale viene azzerata e si va di boulevard. Ma di nuovo, quindi dobbiamo dire cosa. E c'è tutta una retorica, no? Che mette in campo sapere i nuovi, l'igiene sociale, il fatto che ci vuole la luce, che se c'è la luce c'è una malattia, l'aria salubre perché in un boulevard permettono il ricambio dell'aria, no? Questo significa meno peste, meno tubercolosi, ma soprattutto significa meno socialismo, perché su quei cacchi di boulevard per passare le cariche della cavalleria. Capite come si interfacciano, no? I processi. Cioè, qui Pasteur, ecco la rinnovazione biopolitica, no? Scopri in biologia, scopri il virus, il ragionamento sul virus diventa il grande, come dire, acceleratore metaforico di un ragionamento sul fatto che i grandi fuburgo operari, no? Sono esposti costantemente a un contagio, che non è semplicemente la malattia, c'è la malattia, c'è la tubercolosi, la sfiga, ma c'è tutto il codice morale che viene amministrato attraverso di questo, no? La moralità delle classi del lavoro, il cattivo esempio, tutte queste ragazze giovani di cui parla Balzac, di cui parla Gensù, che cominciano invece che stare a casa a lavorare e che si espongono appunto a promiscuità sessuali, gravidanze indesiderate, sfide. Se voi leggete i grandi liberali dell'Ottocento, no? Scoprite che in realtà si occupano di queste, mica di grandi ingegnerie continuate, fanno anche quelli e diventano famosi per quello. Ma un autore come Tocqueville scrive 4 memorie sul pauperismo, 2 o 3 rapporti sulla moralità delle classi del lavoro in Normandia, no? Hanno questi problemi qua. Di nuovo, un codice biologico che veicola le sostanze, la proliferazione di un codice morale, il cattivo esempio diventa un'altra forma di contagio, e che diventa poi codice ulteriore di organizzazione politica degli spazi, nella misura in cui si comincia a ragionare o a usare, cioè, il codice della biologia per dire se tutti gli operai tutti insieme, questi si contagiano vicendevolmente, fanno le lotte, fanno questi dispositivi biopolitici che sono le barricate, ci bloccano la città, e sapete che la storia dell'Ottocento francese, la storia di, no, la rivoluzione, la ritornata, 1815, 21, 30, 48, 70, la rivoluzione. E noi cosa facciamo? Riorganizziamo il potere, no? Il potere si organizza come, in questo caso, certo, come polizia, ma non semplicemente la polizia di prima, ma è più utile per controllare questa cosa, rifare i quartieri, capite cosa funziona? Invece che semplicemente reprimere, impiccare, no? O usare la pena di morte come si può fare ancora fino al 1820 con grande frequenza. Cioè, un testo che credo che secondo me è strepitoso su questo piano qua, di un altro liberale poco noto in Italia, che peraltro è importantissimo, François Guizot, no? ministro dell'educazione francese e così via, che scrive un trattato contro la pena di morte, ma nel 1822, questo provetto che avevo detto, proprio in realtà dentro questo ragionamento qui, cioè 1820, capite, ci sono ancora i carabinieri, ci sono i carbonari, le sette segrete, si fanno le grandi punizioni esemplari, si impicca la gente ed evitiamo il problema. Guizot è quello che dice, ma noi dobbiamo ragionare sull'utilità, diciamo così, complessiva della pena, no? Siamo sicuri che impiccare uno sfigato è utile per evitare quello che ci sta capitando davanti, o invece, ecco la quale è l'organizzazione, dobbiamo invece provare a pensare che se dobbiamo dispiegare, se la pena deve dispiegare un effetto sociale, beh, possiamo usare questo effetto sociale in maniera molto più produttiva, riorganizzando gli spazi della città. Capite cos'è la transizione tra le città? Scusate, magari semplifico molto, no? Ma che cosa sono le transizioni delle trasformazioni del potere, insomma, no? Certo, il più potere è quella roba di quello che si prende cura dei propri cittadini. Come? E gli facciamo una città perfetta. Boulevard, aria, luce, aria salubre, no? Non abbiamo più il problema di malattie che hanno un costo sociale e così. E però questo mi incanta il dispositivo del potere che voglio a un livello molto elevato. Sempre nel gioco, come dice Foucault, di sapere il potere, no? Vengono messi in campo nuovi saperi esperti. Questo giustifica anche il fatto, secondo me, che non ci sono fonti. Perché questo lavoro lo faceva Evaldi in quegli anni, cioè andare a leggere le teoriche degli architetti, degli urbanisti, leggere le teoriche dei medici, dei responsabili della salute, delle fabbriche e così via, insomma, no? E poi perché secondo me Foucault, questa è l'ultima roba che volevo dire, probabilmente si stufa subito di questo. no? Perché si rende conto, questo è il mio pezzo, che di nuovo a fare una genealogia sul modo nel quale la libertà viene controllata dal potere significava non poter mai uscire da quella gabbia fondamentale che spiega che anche il soggetto, l'individuo è l'effetto del potere. E allora, secondo me, quella virata che fa, che molti qualificano di era diventato un fricchettone perché stava in California finalmente faceva il gay felice, quindi si occupa della cura di sé, dello stile di vita. Non sono menate mie, se tu ti leggi i saggi che a questo dedicano Orti o altri importanti americani, un po' più o meno così, no? Ecco, invece secondo me è proprio motivato da un percorso interno del cuore, cioè andare a recuperare l'etica degli storici, vuol dire ragionare di nuovo, come diceva Deleuze, sul fatto che siamo l'evento che siamo, e allora provare ad aprire un cantiere sull'individuazione, sulla soggettivazione totalmente sottratto al potere, come se appunto non fosse in ballo semplicemente la deriva esistenziale, ma ragionare sulle figure di soggettivazioni, vuol dire totalmente autonome, no? Costruite su una perfetta temporalizzazione di quello che il soggetto è e sul governo di sé come forse la figura massima di liberazione possibile. Però poi è morto, quindi non so se sarebbe, però io credo che ci sia una specie di buon idea. Non so se sbaglio. Sì. Una cosa stupida, io ho il risultato.